Il manifesto dell'altro ieri, venerdì 10 marzo, se la prende col liceo classico di Massa, che a quanto pare ha istituito in via sperimentale un sistema di valutazione degli alunni basato sui famigerati quiz a risposta multipla. Dei relativi formulari pubblica anche un esempio, da cui si apprende che quei poveri giovani devono saper precisare tra le altre cose quale segnale venne stabilito per annunciare la vittoria di Teseo sul Minotauro. Le possibilità erano A, una fumata bianca, B, una vela nera, C, una vela bianca e D, un suono di corno. Chi era Arianna? A, la sorella di Androgeo, B, la figlia di Etra, C, la figlia di Minosse, D, una fanciulla cretese. Che cosa ne fece Teseo a missione compiuta? A, la sposò, B, l'abbandonò nell'isola di Nasso, e un mucchio d'altri particolari più o meno piccanti su quel vecchio mito cretese. Viene anche chiesto loro, pur non trattandosi precisamente di un quiz, di spiegare chi era il Minotauro, massimo 3 righe, e di riassumere la storia di Ippolito, massimo 5. L'iniziativa ha suscitato l'indignazione degli studenti che hanno protestato con un documento che ha raccolto ben 320 firme su 571. E la protesta sta dilagando a macchia d'olio in tutte le scuole del litorale toscano. Di fronte a questa notizia, vi dirò, mi sento un po' imbarazzato. Dopo aver espresso la doverosa solidarietà agli studenti, che a protestare fanno bene sempre, vi confesserò che con tutta la buona volontà di quel formulario non riesco a scandalizzarmi. A parte il fatto che quello di riassumere una storia in non più di 5 righe lo direi un esercizio eccellente e raccomandabilissimo, a cui temo dovrei dedicarmi più spesso io stesso, mi sembra che una volta che si è deciso, per motivi che francamente mi sfuggono, che ai liceali sia indispensabile la conoscenza del mito di Teseo, non si vede perché non accertarla con quel sistema. Lo spettacolo di un gruppo di giovani intenti a corredare di crocette gli appositi moduli, anche se qualcuno tirerà sempre a indovinare e qualcun altro sporgerà comunque il collo per sbirciare sul foglio del vicino, mi sembra comunque più dignitoso di quello delle interrogazioni tradizionali, di quelle lunghe aposiopesi con cui lo studente medio risponde alla maggior parte delle domande, aspettando supplichevolmente l'intervento dell'interrogatore stesso, con l'impudicizia di una casalinga che supplica per telefono il conduttore di un quiz televisivo perché vi dia un aiutino. Gli studenti di Massa scrivono che nessuna cultura potrà venir loro da anni spesi in una selva di crocette, con l'ansia di non riuscire a sintetizzare in 4 righe e mezzo il pensiero di Kant, il pessimismo di Leopardi, l'arte di Van Gogh o l'arte di Virgilio. Ma non mi sembra che nessuno chieda loro niente di simile. Gli chiedono di definire chi è il Minotauro. Il riuscire a dominare solidamente il concetto per cui dato un A e un B, quello dei due che non è A e sicuramente B, mi sembra già un proficuo esercizio mentale. D'altronde non scole sed vita e discimus, non studiamo per la scuola ma per la vita, e in questa vigilia elettorale sono molti che ci spiegano come la quintessenza della dignità democratica, nonché unica garanzia di governabilità, consista proprio nel fare una scelta del genere, optando se si è in Lombardia tra un Martinazzoli e un Formigoni o se in campagna tra un Basso e un Lino, in attesa di più impegnative dicotomie su scala nazionale, tertium come si diceva non datur. Non verranno certo quei bravi giovani di Massa a cedere alle lusinghe del sistema proporzionale, lo lasciano a noi inguaribili nostalgici di una democrazia più articolata. Della scuola, come della politica d'altronde, è bene fidarsi solo fino a un certo punto. Gli insegnamenti dei miti spesso sono ambigui. Teseo, quel porco, piantò Arianna in Asso, nel senso dell'isola, ma per lei in definitiva fu una bella fortuna, non solo perché certi tipi è sempre meglio perderli che trovarli, ma perché da lì l'avrebbe salvata il dio Dioniso, ed essere salvata da un dio non era anche allora cosa da poco. E anche dei quiz non bisogna sempre fidarsi, bisogna sempre sapersi guardare dai trucchi che celano e non credere che tutto funzioni per dicotomie, e dipende sempre da quali sono gli A e i B che ti propongono. Arianna, poveretta, era sì una fanciulla cretese, D, ma non per questo non era figlia di Minosse, C, e quindi, ahimè, era anche sorella di Androgeo, A, e ci piacerebbe sapere quanti studenti di Massa si sono accorti della trappola. Analogamente, le proposte e i programmi del candidato A potrebbero non essere troppo diversi da quelli del suo concorrente B, e non tutte le risposte multiple, ahimè, si escludono a vicenda, e l'operazione di sceglierne una può rivelarsi talvolta di una sconcertante futilità. Seems we're always searching.